bravissima infermiera che mi svegliò un taglio nella vena da vomito. È lunedì il colloquio su come io morirò. Ma nell'ultima cena col diavolo ognuno paga il conto ogni cognito. E il cielo di piombo nel quale mi muoverò. E tu non ascolti più. Tu non dormi più. Dal cinegiornale al teletrasporto Carlo sta bene anche senza lavoro, perché nelle lacrime la gioia del suo vivere. Ma vestiti religiosi alla ricerca del piacere in un'epoca di nulla, e la scienza può tacere, è solo un altro ordine.